Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentrovati a Salva Danaio. Dai, ancora qualche ora al lavoro e poi possiamo fermarci per qualche giorno finalmente. In molti si fermeranno già da oggi e il ponte di Pasqua partirà per queste persone già da domani. Qualcun altro invece domani dovrà ancora lavorare, ma in ogni caso noi oggi vogliamo occuparci di chi ha deciso di partire per qualche giorno. Che lo faccia stasera o che lo faccia domani è indifferente. Alleggeriamo un po' Salva Danaio, lasciamo da parte per quello che è possibile tensioni e preoccupazioni economiche ed esploriamo le scelte di chi in questi giorni chiude baracche e burattini e raggiunge qualche bella meta, italiana o straniera, per rinfrancarsi un po' dalle fatiche invernali. Allora, raccontateci che meta avete scelto, che budget di spesa vi siete dati. Siamo pronti a raccogliere e a commentare le vostre idee stamattina con i nostri ospiti e magari da loro ci faremo dare anche altri suggerimenti se proprio siete degli indecisi dell'ultima ora e magari, che ne so, farete la vostra scelta addirittura domani, poco prima di partire, poco prima di mettere in moto la macchina, perché peraltro saranno almeno 4 milioni o forse anche di più le auto in circolazione nelle prossime ore, anzi si calcola che saranno almeno 6 milioni, 4 milioni di italiani utilizzeranno l'auto per i loro spostamenti in occasione delle vacanze pasquali, mentre saranno 6 milioni coloro che partiranno per un viaggio, quindi gli altri 2 milioni sceglieranno treno o aereo. E allora raccontatecelo all'800240024, commenteremo le vostre decisioni con Daniele Ruggeri, Web and Product Manager di Opodo Italia. Opodo è un'agenzia di viaggi online leader nel mercato europeo. Daniele, ben trovato a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E poi abbiamo con noi, collegato telefonicamente, Tullio Marcelli, presidente di Terra Nostra Coldiretti, perché pare che molte destinazioni, che destinazioni gettonatissime quest'anno saranno gli agriturismi. Marcelli, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei. E questo è stato un tema oggetto proprio di una rilevazione effettuata da Coldiretti negli ultimi giorni. E più tardi ci collegheremo tra qualche istante anche con Andrea Giannetti, presidente di Asso Travel, che è l'associazione nazionale delle agenzie di viaggio e turismo aderenti a Confindustria, Federturismo e Federexport. Vi ho ricordato il numero verde per intervenire, interagire con noi. Facciamo questa chiacchierata oggi prima delle vacanze di Pasqua a Salva Danaio, vi ripeto ancora un po' per alleggerire tutte le brutture di cui ci siamo occupati negli ultimi tempi, e oppure scriveteci al 349-238-6666. Prima di partire con questo argomento, la borsa, come sempre, la borsa oggi è piuttosto pimpante. Parigi sta guadagnando l'1,15%, Francoforte guadagna lo 0,87%, Londra lo 0,84%, Milano lo 0,90%, quindi Milano viaggia in linea con le altre borse europee e non si cura più di tanto della notizia che, come avete sentito, abbiamo commentato anche nel corso del giornale radio, l'addio dell'amministratore delegato della Borsa Italiana, Alessandro Capuano, che verrà formalizzato nelle prossime ore. Al suo posto arriva il capo della divisione Capital Market del London Stock Exchange, Raffaele Ierusalmi. Il quadro vede oggi tra i titoli favoriti CIR più 3, Buzzi Unicem più 2,90, Lottomatica più 2,62, Azimut e Mediolanum in rialzo di oltre 2 punti, quindi bene il settore del risparmio gestito, STM ed Impregilo in rialzo di 2 punti, 1,5 punti di progresso per Prysmian ed Exor, mentre Scem de Campari, da quando questo gruppo ha pubblicato i suoi conti, il mercato continua a penalizzarne il titolo, meno 3,73%, Pirelli meno 1,65%, Banco Popolare meno 0,49%. Oggi l'euro è scivolato ad un nuovo minimo storico sul franco svizzero, a 1,41,80, adesso recupera 1,42,17, mentre sull'euro, sul dollaro l'euro recupera 1,35. Tra l'altro appuntamenti economici importanti sono previsti soprattutto per domani, quando verranno diramati i dati sulla disoccupazione americana. Ieri già le prime indicazioni dell'agenzia ADP hanno così indicato, indicazioni che hanno indicato, non è molto bello a dirsi, però in sostanza questi dati formulati dalla agenzia ADP hanno già reso noto che in marzo l'economia americana ha perso molti più posti di lavoro del previsto e quindi questo ha lasciato un po' non molto positivo l'atteggiamento degli investitori statunitensi, che hanno infatti fatto chiudere la borsa americana ieri sera in territorio negativo. Lasciamo la borsa, però andiamo subito al tema di oggi. Oggi esploriamo un po' le scelte di vacanza di questi giorni delle famiglie italiane. La crisi si sfida, perlomeno in tempo di vacanze. Tra pranzi, gite, viaggi in Italia e all'estero, si prevede che a Pasqua gli italiani spenderanno circa 10 miliardi di euro, il 12% in più rispetto allo scorso anno. A crescere è anche la spesa media pro capite, che passa dai 460 euro del 2009 agli attuali 546. La Campania, per chi resta in Italia, e la Francia, per chi punta sull'estero, sono le mete preferite. Dei 7 milioni che per le vacanze di Pasqua hanno scelto di fare le valigie, in circa 600.000 riempiranno gli oltre 18.000 agriturismi italiani, che così registrano, secondo la Confederazione Italiana Agricoltori, il tutto esaurito dopo il calo di presenze del 2009. Il grande successo degli agriturismi segue di pari passo il trend dell'ecoturismo. Cresce infatti in Italia il numero di vacanzieri verdi. Secondo un'indagine della Coldiretti, sono sempre di più gli italiani che durante le vacanze cercano soprattutto il contatto con la natura, ma anche relax e tranquillità, le tradizioni culturali ed enogastronomiche e, non ultimo, la possibilità di avere prezzi più bassi rispetto alle altre tipologie di turismo. E gli agriturismi sono le strutture preferite anche per questo genere di vacanza. Allora, c'è un ascoltatore che contesta il fatto che abbiamo eccessivamente pluralizzato la parola agriturismo, perché lui sostiene che si dica agriturismo anche al plurale, non ismi. Anch'io, gentile ascoltatore che non si firma, mi sono posta questa domanda questa mattina, ho visto che si usano indifferentemente i due termini, per cui lo abbiamo lasciato al plurale. Passatecelo, abbiate pietà, ma veramente ci fanno le pulci in ogni modo. Tra l'altro, queste vacanze, speriamo che non saranno totalmente o totalmente, parzialmente rovinate dal maltempo, perché non è che si prevedano delle grandi giornate di sole nei prossimi giorni, e però vedo che comunque le prenotazioni sono state massicce ovunque. Daniele Ruggeri su Opodo Italia, soprattutto il Sud Italia è gettonatissimo. Esatto, sì, quest'anno abbiamo avuto un incremento di vendite sul Sud Italia e quindi sull'Italia, diciamo, quindi in generale il detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, in realtà quest'anno si è tradotto in un Pasqua al ritorno a casa, insomma. Probabilmente ha influito il fatto che le scuole sono state chiuse anche per le elezioni molto più tempo, quindi molta gente probabilmente al nord per lavoro è tornata al sud e quindi ha... Ma sì, molte scuole hanno chiuso per 15 giorni, esatto, addirittura riapriranno tempo. Dopo l'8, il 9, non ho capito bene, per cui... Esatto, e poi come dicevamo, le condizioni meteorologiche non sono il massimo, ma soprattutto una Pasqua caduta così presto rispetto a anni precedenti non hanno incentivato l'acquisto di pacchetti vacanze magari su destinazioni del Mediterraneo, che pure sarebbero comunque durante il mese di aprile buone come destinazioni, ma hanno privilegiato short breaks piuttosto che pacchetto, ma se deve essere pacchetto sul sicuro, e quindi destinazioni tipo Mar Rosso piuttosto che le Canarie, o comunque destinazioni che possono consentire e garantire di sfruttare la propria vacanza con un clima accettabile. Certo, credo che appunto il fattore clima quest'anno sia stato determinante. Inverno che non sembra non finire più, infatti ieri abbiamo avuto anche questa mezz'ora di sole a Milano, ci sembrava una cosa assolutamente strana vedersi, e oggi infatti siamo ritornati di nuovo sotto la pioggia. Per quello che riguarda, Daniele, è possibile rilevarlo dai vostri osservatori il budget di spesa che le famiglie appunto hanno riservato a questi giorni di vacanza? Sì, noi abbiamo riscontrato una crescita non solo in termini di prenotazioni, ma anche in termini di budget medio che è stato speso dalle persone che appunto hanno deciso di acquistare dei prodotti su Opodo, che possono essere sia il weekend, volo più hotel, piuttosto che semplicemente il soggiorno in albergo o in agriturismo, piuttosto che bed and breakfast. La crescita è stata del 7% rispetto all'anno scorso, quindi in realtà questo è un sintomo che fa vedere da una parte sia una crescita media dei prezzi proprio a livello di tariffe aeree piuttosto che di prezzi quindi di potrebbe essere stato determinato da questo più 7% in parte, sì, e in parte comunque da una domanda che è stata più forte rispetto all'anno scorso sicuramente. Abbiamo riscontrato una crescita appunto su una duplice via, sia su quella del budget medio che proprio in termini di volumi di prenotazioni. E insomma, ci sembra anche questa una buona notizia, perché comunque quando ricominciano anche ad aumentare le tariffe, lo so che per noi è sempre una cattiva notizia, ma tutto sommato significa anche che l'economia comincia forse a rimettersi su un sentiero un po' più favorevole rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi due anni, e questo lo segnalano anche alcuni ascoltatori. Marco dice, insomma, allora la crisi è finita, con un bel punto esclamativo. Può essere quello che vedete dal vostro osservatorio, Daniele? Non so, vi è anche capitato in passato di notare qualche tendenza particolare, ovviamente in relazione proprio anche all'andamento economico? Se l'economia va molto male, i viaggi vanno a zero, non a zero, ma diciamo che però a zero, cambiano totalmente, no? Però diciamo che il viaggiatore italiano probabilmente è un viaggiatore che risparmia su tante cose, ma sul viaggio almeno il viaggio, non so, le ferie di agosto piuttosto che la pausa invernale di Natale, comunque è un qualcosa che viene visto ancora come un'esigenza a cui si fa fatica a fare a meno, insomma. Quindi nel nostro caso abbiamo visto, non abbiamo avuto una grossa battuta d'arresto in tutto il corso del 2009, che pure è stato un anno veramente nefasto, insomma, per tantissimi settori, e per quanto riguarda il 2010 abbiamo avuto già un inizio, insomma, molto buono, più molto incoraggiante. Positivo, esatto. C'è anche da dire un'altra cosa, che quest'anno non avremo i ponti del 25 aprile e del 1 maggio perché cadono di sabato, per cui magari qualcuno avrà approfittato anche di queste giornate di Pasqua in vista del fatto che appunto quelle giornate là invece non ne potrà approfittare. Tullio Marcelli, presidente di Terra Nostra Coldiretti, ancora buongiorno. Allora, le previsioni di Pasqua, leggo da quanto avete dichiarato nei giorni scorsi, confermano un trend positivo del turismo ecologico che in Italia ha raggiunto un valore di oltre 10 miliardi con un progressivo aumento del fatturato e delle presenze che sfiorano 100 milioni all'anno negli esercizi ufficiali delle aree protette. Intanto lei come dice, agriturismo al plurale o agriturismi? Ma io dico sia agriturismo che agriturismo. Benissimo, indifferentemente anche lei. È totalmente indifferente, ricordando però una cosa in particolare, che dietro a un vero agriturismo c'è una vera azienda agricola. Questo mi preme sottolinearlo perché spesso c'è confusione ingenerata anche da messaggi pubblicitari errati, e chi vuole avere un vero agriturismo deve ricercare una vera azienda agricola. E sono questi 18.000 che voi indicate nelle vostre ultime rilevazioni, quelli, come dire, proprio che hanno queste caratteristiche? Certo, quelli che sono autorizzati e che hanno come prevalenza l'attività agricola, perché è bene ricordarlo, l'agriturismo è un'attività connessa, quindi complementare, ma la principale è sempre un'attività agricola, per cui in ogni agriturismo troviamo un'azienda agricola con dei prodotti, con delle tradizioni, con delle cose da scoprire. Allora, questa Pasqua 2010 sarà la Pasqua della riscoperta di quelli accreditati, Marcelli, insomma, che cosa avete rilevato? Ma noi ci stiamo augurando questo, i dati parlano molto chiaro, c'è un aumento del 10% in tutto il territorio nazionale rispetto all'anno passato, ci sono delle regioni in cui c'è il tutto esaurito già sin da ora. Evidentemente chi sta facendo dell'agriturismo un'attività con servizi e con attrazione del turista particolari, evidentemente sta riscuotendo successo, sta combattendo la crisi e sta affrontando la crisi anche a viso aperto. Ci sono delle possibilità importanti all'interno dei nostri agriturismi anche di vacanze attive, ovvero sia di soggetti che comunque possono anche partecipare all'attività dell'azienda agricola e quindi anche essere protagonisti di una vacanza, non soltanto per riposarsi come avviene. Sì, sì, è vero, ci si può organizzare per esempio con i cuochi, fare il pane. C'è una mia amica che l'anno scorso si è scelta, non mi ricordo in che località, forse in Toscana, mi ha raccontato che ha fatto il pane per due giorni. Il pane fatto in casa, la pasta fatta in casa. Ci sono tutta una serie di, si può andare anche all'orto laddove ci sono magari delle serre, oppure al sud Italia dove già ci sono dei prodotti che si possono raccogliere. Si può quindi partecipare attivamente, si può mungere gli animali, ci sono mille attività che si possono fare. Ecco, ma Marcelli, lei mi sta dicendo tutto questo perché sono solamente al momento delle opportunità, ma sono delle opportunità che stanno crescendo anche proprio come scelta dei turisti, oppure ancora c'è un po' di resistenza anche ad essere così dei turisti attivi all'interno degli agriturismi? No, c'è una grande crescita in questo senso, c'è una grande crescita perché c'è la consapevolezza di riscoprire delle attività, oltre che dei sapori e dei gusti, che si sono perse, e soprattutto in questa fase dove il turista italiano si muove di più in Italia, a causa anche della crisi evidentemente, è la capacità e la possibilità di riassaporare o riscoprire delle cose che sono patrimonio dei nostri nonni, dei nostri genitori, che però non sono ancora aperte. Ecco, adesso noi dobbiamo andare un attimo in pausa, Marcelli, poi ci aspettiamo da lei magari anche qualche indicazione di spesa, quanto può spendere una famiglia media frequentando un agriturismo magari in una bella località, magari seguendo anche tutte queste buone abitudini di riscoprire anche proprio la vocazione agricola del posto che si sceglie. 800 24 00 24 è il numero verde per gli interventi dei nostri ascoltatori, 349-238-6666, il numero invece per i messaggi, e cominceremo ad esplorare anche questi tra pochissimo. Salva Danaio. Allora, eccoci di nuovo in diretta. Questa mattina siamo tornati ad affrontare il tema del turismo, però ovviamente con il consueto approccio di Salva Danaio, cercando di capire dagli ascoltatori che meta hanno scelto di raggiungere in questi purtroppo pochi giorni di vacanza. Anzi, magari per qualche famiglia sarà un periodo un po' più lungo, perché come dicevamo prima con Daniele Ruggeri di Un po' d'Italia, in realtà molte scuole hanno chiuso e per le lezioni, e quindi hanno approfittato di fare questo ponte lunghissimo che per veramente qualche città addirittura di una quindicina di giorni, per cui magari anche le famiglie hanno approfittato per prendersi qualche periodo di vacanza un po' più lungo, e teniamo anche conto del fatto che intanto ci vogliamo lasciare alle spalle quest'inverno che è stato durissimo dal punto di vista meteorologico, veramente snervante, e non ci saranno i ponti del 25 e del primo, per cui magari si tenterà di approfittare proprio di questo periodo. Le anticipazioni fornite da molti osservatori sembrano piuttosto positive, ce lo stavano dicendo anche, oltre che il rappresentante di Opodo Italia, che è questa agenzia di viaggi online, ma anche Coldiretti, Tullio Marcelli, presidente di Terra Nostra. Molte località battute dagli italiani quest'anno saranno proprio località italiane, soprattutto mete ad alta vocazione ecologica, quindi gli agriturismo o agriturismi. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Vi ho invitato a raccontarci che meta avete scelto, che budget di spesa vi siete dati, e magari se invece intendete rinunciare alla vacanza di Pasqua, magari per offrirvi qualcosa di meglio quest'estate, perché no, anche questa potrebbe essere una scelta. Allora, se volete qualche indicazione, ce le possiamo far dare anche dai nostri ospiti. Nel frattempo ci ha raggiunto Andrea Giannetti, presidente di Asso Travel. Presidente, buongiorno, bentornato a Salvadanaio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Le anticipazioni delle agenzie di viaggio quali sono invece per questa Pasqua? Beh, noi abbiamo avuto un buon segnale, non una ripresa a due cifre, non una ripresa che segna il ritorno ai 5-6 anni fa, però un buon segnale sicuramente, con un punto e mezzo percentuale in più dello scorso anno. Che per voi è già indicativo in sostanza di un'inversione di tendenza. Esatto. Dove andranno gli italiani invece secondo le vostre rilevazioni? Perché ovviamente con Coldiretti abbiamo esplorato il mondo dell'agriturismo, con Opodo Italia abbiamo capito che ci sarà soprattutto la destinazione del Sud Italia nelle scelte degli italiani. Le vostre rilevazioni che cosa hanno osservato in termini di mete, quindi di geografia? Quanto riguarda la Pasqua, il grosso del movimento riguarda comunque le città d'arte per i turisti realmente tali, cioè non quelli che vanno nelle seconde case principalmente, ma molto anche il mare, la costiera amalfitana, per cui molte aree del sud. Il dato buono percentuale però che segnaliamo è che sono tornati i turisti anche da altri paesi in questo periodo, il che è un dato che ci pare significativo, perché da due anni segnavamo al ribasso anche in questo periodo. Intanto stavo leggendo alcuni messaggi di alcuni ascoltatori: viaggiare in Italia costa molto, ma molto di più che del resto d'Europa, quindi ripeto, i redditi fissi sono stati avvantaggiati dalla crisi. Forse questa è un'ascoltatrice che ci aveva già scritto prima, adesso recupero magari anche il primo messaggio. Si tratta di Laura che dice va a spendere in Toscana. Daniele Ruggeri, questo è un tema che era uscito fuori forse nell'altra trasmissione dove eri stato nostro ospite, qualcuno lo dice. Sì, girare... in realtà credo che sia un tema che viene fuori sempre in tutti i discorsi sui budget di spesa per le vacanze. Da sempre diciamo che il turista italiano dice che l'estero costa meno dell'Italia, e probabilmente in proporzione può anche essere vero in determinati casi. Per quanto riguarda il nostro punto di vista, mi riaggancio velocemente al discorso che abbiamo fatto prima, cioè la mancanza di ponti. Abbiamo notato che quest'anno appunto Pasqua era l'unica vera occasione per poter fare una pausa di fine inverno, ma abbiamo cominciato a spingere molto le vendite per l'estate, e devo dire che c'è già un grandissimo ritorno, anche perché, come probabilmente potranno confermare anche altri, i tour operator garantiscono un ottimo risparmio se si prenota ora per tempo. Certo. Noi abbiamo iniziato proprio in questa settimana a spingere le vendite per l'estate, e devo dire che c'è già un'ottima risposta da parte dei nostri utenti. Credo che sia proprio perché, non avendo altre occasioni intermedie per poter evadere, diciamo così, dalla routine quotidiana, le persone stanno ormai cominciando ad investire molto sulla vacanza con la V maiuscola, che in Italia rimane comunque quella di agosto. Quella di agosto. Andrea Giannetti, ci conferma anche lei questa tendenza? Se avete osservato la stessa cosa? Già abbiamo avuto prenotazioni sull'estivo già nella finestra di febbraio, cosa che non accadeva da due anni, un volume di prenotazioni chiaramente spinto anche da quello che si chiama advance booking, c'è uno sconto per chi prenota prima, però era un segnale che non avevamo così cospicuo da un paio d'anni, per cui questo è figlio del fatto che la vacanza principe è quella di agosto e le persone a reddito fisso cercano di prenotarla al più basso prezzo. Certamente. Possibile. Ma anche della politica di incentivazione di tutti i nostri operatori turistici, sia quelli interni per cui che operano sul mercato italiano, per cui fanno spostamenti in Italia, sia per quelli che fanno tour operation verso altri paesi europei ed extraeuropei. L'advance booking, tra l'altro noi ce ne siamo occupati in un'altra trasmissione a soldi e dintorni, come però solamente approfondimento, è rivolto alle tutele che i viaggiatori che scelgono questa modalità di prenotazione hanno, perché chiaramente qualche volta anche anticipare con larghissimo anticipo la vacanza fa correre qualche rischio, ma questo è un tema che non ci interessa approfondire oggi. Comunque è interessante, sicuramente il risparmio è indubbiamente notevole, perché non dico che si possa arrivare qualche volta anche al 50% di un intero pacchetto, ma insomma 30-40% di risparmio lo possiamo anche portare a casa. Tullio Marcelli, adesso sentiamo un'ascoltatrice e poi ci sono delle osservazioni molto divertenti di alcuni ascoltatori sul tema dell'agriturismo. Sentiamo Silvana dalla provincia di Udine. Buongiorno Silvana, dove va? Buongiorno, sono Silvana della provincia di Pordenone. Ah, Pordenone, mi avevano segnato Udine, lo stesso. Niente, volevo fare anche una freccia positiva agli alberghi diffusi, che chiaro non sono agriturismi, però è lo stesso un bellissimo contatto umano. Diciamo che in Friuli la nostra perla è Sauris, che è una zona stupenda. Mm-hmm. Però nella zona della Valcellina, Vaiont, non so se avete sentito quella volta che è caduto un pezzo di montagna, adesso è un po' famoso, anche lì praticamente invece che costruire un albergo grande da 80 camere si è potuto creare dei piccoli appartamenti usufruendo delle case che già c'erano, ma ristrutturate. Mm-hmm. Certo. Anche l'albergo diffuso è una cosa carina. No, no, certo, ma per carità, Silvana, è importante poter conoscere tutte le opportunità che i consumatori hanno, ovviamente per salvaguardare anche qualità della vita quando si va in vacanza, perché bisogna stare sereni senza ovviamente spendere delle follie. Di sicuro ci sono tantissime opportunità nel nostro paese. Sentirei anche Alberto da Padova per poi tornare, appunto, come vi dicevo, a Tullio Marcelli di Coldiretti. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo approfittare per fare un intervento riguardo ancora ai costi degli hotel, in particolar modo qui in Italia. Io sono un agente di commercio, lavoro prevalentemente con l'estero, da qualche mese ho cominciato a girare anche per l'Italia e devo dire che sono abbastanza stupito sia del livello degli hotel, perché c'è una giungla di stelle che non si capisce più realmente se siano assegnate con criteri, insomma, diciamo. Esatto. Quindi bisognerebbe rivedere anche la politica di attribuzione di questi meriti. Esatto. Anche sul costo richiesto medio, diciamo, per degli stabilimenti che sono veramente a volte non all'altezza del prezzo che richiedono. Mm-hmm. Io posso dare un'esperienza di 15 anni, in particolar modo con la Spagna, dove si dorme tranquillamente su un hotel a 3 stelle reali a 35-40 euro, se si escludono le grandi città, ovviamente, cosa che assolutamente non succede in Italia, neanche in provincia. Quindi chi si muove per lavoro, ma per turismo è lo stesso, sicuramente si ritrova a spendere delle cifre che favoriscono nettamente i paesi, i nostri concorrenti da un punto di vista turistico, come può essere la Spagna o la Francia. Infatti, Alberto, però insomma lì abbiamo sentito anche tante volte gli operatori del settore che ci spiegano che per il costo di manutenzione, di mantenimento di determinati servizi, purtroppo al di sotto di un certo prezzo non possono andare. Posso sentire Andrea Giannetti su questo problema, che credo che per la categoria sia arcinoto? Certo. Beh, no, è notissimo, voglio dire, al di là della compressione del prezzo, che noi certamente non possiamo competere con alcuni paesi, in particolar modo extraeuropei, però non è significativo la differenza fra i paesi europei. Se togliamo le eccezioni di alcune aree della Spagna e alcune aree della Grecia, che non è quella estiva, per il resto, per quanto riguarda Francia, Inghilterra, Belgio, Germania, Austria, siamo sicuramente concorrenziali sulla stessa fascia di prezzo. Evidentemente quello che colpisce è che talvolta l'utente non ritenga adeguati i servizi. In realtà, se andiamo a paragonarli come operatori con le camere che compriamo in tutta Europa per i nostri turisti, noi vediamo che il servizio medio offerto in Italia e la struttura della ricettività dagli agriturismi agli alberghi non è inferiore a quella europea. Per cui questa cosa che noi sentiamo dire continuamente, anche dell'analisi, noi riempiamo dei moduli di presentazione di ogni struttura, ci facciamo rilasciare dai turisti i complaint, se ci sono contestazioni o meno, non abbiamo così tante... Sì, devo dire che in ogni albergo c'è il foglietto sul comodino per poter esprimere il proprio grado di soddisfazione o meno del servizio, la qualità del servizio della camera, eccetera. Qualche volta non utilizziamo tanto quei servizi. Esatto, perché non ci sono per così tanti reclami come talvolta si sente dire. Io lo capisco, perché per l'incidenza media è piuttosto caro, ma noi se andiamo a parametrare rimpatriare quello che compriamo ai prezzi di vendita sugli altri paesi europei, anche fatti dai grandi tour operator europei, non solo dagli alberghi diretti, dove ci può essere variazioni che dipendono da altre cose, non ci sono differenze sensibili. Quello che è vero è che in alcune aree, in alcuni periodi dell'anno, noi non troviamo punti bassi di prezzo in Italia, mentre in altri paesi questo accade con oscillazioni più Quindi grandi. C'è un po' più legame rispetto alla stagionalità. Altrove. Allora, Tullio Marcelli, c'è un ascoltatore che scrive: ma quale attività agricola? In realtà, gli agriturismo di cui parlavamo prima, adesso mi viene da dirlo con la O finale, sono dei ristoranti un po' rustici, con un giardino, quattro galline e un pony. Verifichiamo se veramente quello che mangiamo è prodotto in azienda. Allora, sicuramente ci saranno anche delle attività poco più che agricole che si vogliono accreditare come agriturismo, ma in realtà, come dire, anche questa categoria ha in qualche maniera un bollino di qualità, no? Ma certamente ce l'ha. Purtroppo ci sono degli episodi come quelli che ricorda l'ascoltatore. Galline e un pony. No, ci sono quegli episodi che però secondo me a volte abusano del nome agriturismo, magari con la scritta menù agrituristico, e di fatto non sono un agriturismo, hanno altri tipi di licenze. Purtroppo questo fenomeno è frequente soprattutto in quelle regioni dove c'è un alto numero di agriturismi, pensa alla Toscana o l'Umbria o anche il Trentino. Evidentemente l'attenzione del consumatore è cambiata negli ultimi anni, e per cui se il consumatore giustamente sa che ci deve essere un'azienda agricola, può andare anche a chiedere in questo caso al titolare dell'azienda quali sono i prodotti che produce, può cercare di acquistarli, può vedere dove li conserva, per cui il vero agriturismo ha il bollino, a nostro avviso, di Terra Nostra, che è quello che lo identifica Benissimo. Rispetto a tutti gli agriturismi. Ah, quindi proprio gli date il bollino di Terra Nostra? Noi abbiamo una targa, gli agriturismi di Terra Nostra hanno una targa. No, questo è buono, insomma, buona indicazione, certo, anche un buon riferimento. Diamo noi una targa agli agriturismi di Terra Nostra, che sono associati a Terra Nostra e a Coldiretti, diamo una targa identificativa all'esterno, in quanto loro, sottoscrivendo la tessera, sottoscrivono una carta dell'accoglienza, che è una sorta di decalogo con una decina di indicazioni che si obbligano a rispettare nei confronti del cliente. Benissimo. Per cui hanno questo come possibilità di riconoscimento. E allora ci racconterà adesso Marcelli quali sono gli standard dai quali non si può assolutamente prescindere se si vuole andare in agriturismo. Dobbiamo aspettarci quel servizio, altrimenti non si può definire tale. 800 24 00 24, invito ancora gli ascoltatori a chiamarci per raccontarci le loro scelte di vacanza o la loro considerazione su questo argomento, almeno in questo frangente che è ancora economicamente un po' complicato per molte famiglie. Stiamo tentando di lasciarcelo alle spalle con qualche difficoltà, qualche strascico pesante, però insomma magari qualcuno la vacanza che se l'è meritata nonostante le difficoltà ha scelto di farla ugualmente. Dove andate, quanto spenderete, raccontatecelo tra poco. Salva Danaio. Eh sì, stavamo ragionando un po' con Daniele Ruggeri rispetto ad all'osservazione fatta dalla prima ascoltatrice di Pordenone, che ci raccontava degli alberghi diffusi. Mi facevo spiegare bene, Daniele Ruggeri, cosa fossero, perché poi alla fine non ho pensato neanche di chiederlo alla nostra ascoltatrice. In realtà, in tanti altri invece ci stanno segnalando, Tullio Marcelli di Coldiretti, torno a lei, proprio questa così non so se definirla cattiva abitudine di molte aziende agricole, che ovviamente cercano di raccattare un po' di clientela pur non avendo i requisiti per poterlo fare, almeno negli standard previsti da Coldiretti per operare come agriturismo. Allora, ci dà quattro dritte per poterlo riconoscere, al di là diciamo del marchio che voi mettete, che è quello di Terra Nostra, ma se questo fosse occultato, nascosto dietro una porta, insomma, quali sono magari quattro servizi di base dai quali non si può assolutamente prescindere? Ma il primo innanzitutto è l'accoglienza, ovvero sia l'accoglienza deve essere il primo elemento. Praticamente o il titolare o un suo collaboratore o un dipendente devono essere i soggetti che comunque vanno ad accogliere il turista, e questo si distingue anche da molte strutture magari molto grandi dove di fatto ci può essere soggetti che comunque non fanno parte dell'azienda. Questo è un primo aspetto. Il secondo, che negli agriturismi, quelli veri, dovrebbe esserci, e quelli che noi garantiamo ci sono, perché facciamo anche dei controlli in questo senso, il 100% di prodotti italiani, per cui prodotti non OGM, meglio se sono DOP o IGP, quindi prodotti certificati, e questo è un ulteriore elemento di distinzione che serve per capire se in effetti in quell'azienda c'è un'azienda agricola dietro oppure questo no. Il discorso poi relativo anche alla pulizia, quindi che è un elemento altrettanto importante, e comunque soprattutto dobbiamo stare attenti a conoscere il titolare dell'azienda agricola e farci spiegare qual è l'attività agricola che c'è alle spalle, andando ad assaggiare quei prodotti che lui produce. Anche perché molto spesso sono a conduzione familiare, per cui sono anche, come dire, in termini di rapporto molto molto cordiali, per cui si può davvero fare una chiacchierata in piena libertà con il titolare una volta individuato. Marcelli, le faccio sentire un altro ascoltatore che, prego, lo stesso vuole ritornare su questo argomento. Io devo dire, volevamo fare un po' la vacanza in termini generali, è finita per essere la trasmissione sull'agriturismo, ma va bene, significa che vi interessa. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti ascoltatori e voi naturalmente. Ma volevo semplicemente sottolineare quello che state già dicendo da un po'. Mi è capitato per esperienza personalissima di incontrare degli eccellenti agriturismi che sono tali nel vero senso della parola. Ce ne sono tantissimi altri purtroppo che, come dicevo qualcuno poco fa, hanno una gallina, un pony, sì davvero, sono dei piccoli zoo dove ci portano i bambini a vedere animali che oramai non guardano, vedono più, e si approfitta per mangiare, delle volte anche bene devo dire, però alla base di tutto questo andrebbe fatta una considerazione essenziale secondo me, che io valuto carentissimi i controlli su tali tipi di esercizi, controlli cioè di attenersi alle leggi vigenti. Certo. Moltissimi agriturismi hanno usufruito di fior di miliardi di euro in tutta Italia di contributi, sì, di contributi a fondo perduto, e hanno approfittato per avere un pezzo di terra. Dico subito che bisogna salvare sicuramente quelli che hanno fatto e stanno facendo un eccellente lavoro, veramente un eccellente lavoro, però credetemi, ce ne sono veramente tanti, direi troppi, che agriturismi veri non sono. Grazie Antonio, io credo che Coldiretti come le altre organizzazioni di categoria conoscano molto bene quello che succede e stanno ovviamente facendo anche un gran lavoro affinché migliori radicalmente la reputazione del settore, magari eliminando, non perché non debbano più lavorare, ma non farlo secondo i criteri che loro ritengono appunto imprescindibili. Volevo ritornare però al tema della vacanza un po' in termini generali rapidamente, sento Andrea da Vicenza per poi concludere, poi devo andare anche alla pillola del risparmio, che è questo percorso che stiamo facendo da qualche giorno. Andrea, rapidissimo, se ce la fa, grazie. Andrea da Vicenza. Sì, rapidissimo, grazie. Sì, buongiorno. Ma io volevo un po' contraddire quello che è stato detto prima sul costo degli alberghi in Europa. Io viaggio molto e da molti anni, e devo dire che capitali europee con costi di gestione pari a quelle italiane, tipo Berlino, per fare un esempio, o torniamo sul discorso di prima, altre città della Germania o del nord Europa, gli alberghi non costano assolutamente come Roma, sto parlando di alberghi a 4-5 stelle che sono mediamente al doppio. Quindi costano di più o di meno, Andrea? Costano di più o di meno? Naturalmente Parigi e forse Londra, che riescono a essere ai livelli nostri italiani, per cui secondo me questo è un grosso problema. È un grosso problema per un certo tipo di turismo, anche però, magari a volte benestante. Sì, Andrea, grazie per la sua testimonianza. Il problema però è sempre quello: io, se un articolo di qualsiasi tipo lo vado a comprare al supermercato, lo ritengo assolutamente non rispondente alle mie esigenze, io non lo compro più. Se comunque, anche se qualitativamente bassi, gli alberghi continuano a mantenere una politica di remunerazione di prezzi che riteniamo non opportuna rispetto al servizio offerto, ma vengono ancora frequentati, evidentemente perché c'è domanda. Quindi qualche volta dipende anche un po' da noi, senza naturalmente difendere inutilmente la categoria. Io purtroppo non riesco a continuare a far intervenire i miei ospiti perché devo andare alla nostra rubrichina finale. Lo sapete, il 21, il 22 e 23 aprile a Milano si svolge il Salone della Gestione del Risparmio, il primo evento italiano interamente dedicato al settore del risparmio gestito. E allora, come sapete, Radio 24 da qualche giorno sta compiendo questo percorso per spiegarvi, in vista di questo appuntamento, quali sono le parole del risparmio. Oggi sentiamo cosa vuol dire Fondo Comune di Investimento. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. I fondi comuni sono strumenti finanziari che raccolgono capitali raccolti da vari risparmiatori, ciascuno dei quali detiene un numero di quote proporzionali all'importo che ha versato. Il risparmiatore diventa così sottoscrittore di una quota del fondo e come conseguenza accetta implicitamente il rischio e il rendimento associati a qualsiasi investimento e in particolare al portafoglio scelto. Rispetto a un investimento diretto in azioni o obbligazioni, il principale vantaggio offerto dal fondo comune di investimento è la diversificazione di portafoglio, un fattore quest'ultimo che limita il rischio a cui ci si espone. Un secondo vantaggio riconosciuto ai fondi comuni è legato alla competenza professionale di chi ne gestisce gli investimenti. I gestori tengono infatti costantemente sotto stretto controllo le tendenze e gli andamenti dei mercati finanziari nei quali sono presenti e acquistano i titoli delle imprese che considerano più promettenti. L'orizzonte temporale dell'investimento non è vincolante. Chi sottoscrive un fondo può uscirne liberamente in qualsiasi momento. Nella maggior parte dei casi, infatti, non è prevista nemmeno una commissione di uscita. Il sottoscrittore che decide di disinvestire incassa il valore delle quote possedute in base alla quotazione del momento. Salone del Risparmio a Milano dal 21 aprile. Iscriviti gratis a salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato Le parole del risparmio. Allora, io ho 30 secondi di tempo per concludere, però Andrea Giannetti, torno da lei perché lei aveva difeso naturalmente la questione degli alberghi. Tra l'altro siamo andati completamente fuori strada dalla trasmissione di oggi, quindi abbiamo capito che dovremmo farne una esclusivamente dedicata all'agriturismo e una invece dedicata ancora una volta alla qualità degli alberghi italiani, con tanti ascoltatori che continuano a lamentarsi. Infatti va fatta proprio trasmissioni conoscitive, perché perlomeno l'argomento viene approfondito. Io posso rispondere, ma come ho risposto prima, cioè non vi sono sostanziali per noi professionisti differenze di prezzo, e noi percepiamo soltanto dal cliente consumatore, per cui cerchiamo di comprare al deve meglio, sintetizzare per molto Giannetti perché devo chiudere. Sto fingendo in 15 secondi, per cui la stagionalità, la gestione della fascia dei prezzi tocca i fattori europei, sembrano più vantaggiosi anche le grandi città d'arte, in realtà mediamente non lo sono mai. Parigi 5 anni fa costava molto più di noi. Va bene, allora io mi fido sulla parola perché 5 anni fa a Parigi non c'ero e quindi non posso dirlo. Per adesso la ringrazio per essere stato con noi, ringrazio anche Tullio Marcelli e Daniele Ruggeri, ritorneremo di nuovo su questi argomenti che ci piacciono sempre molto. Di fatto io auguro sicuramente intanto un'ottima vacanza a tutti. Domani non ci saremo in diretta, saremo, lo confesso, registrati, ma vi daremo tutte delle indicazioni utili alla lettura se volete trascorrere con un buon libro le prossime giornate di tranquillità. Intanto da Deborah Rosciani un caro saluto e naturalmente buona Pasqua.